Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sulle Stormo Rock, un po' in diretta, un po' in ritardo, più che altro che in diretta. Purtroppo ho avuto un piccolo imprevisto, io mi sono dimenticato questa tecnologia e non mi era mai capitato, mi sono dimenticato il mio cavetto che mi serviva effettivamente a collegare il mio telefono direttamente qui alla console in radio. Qui piccola spiegazione per quanto è questo ritardo, perché oggi effettivamente mi serve effettivamente il telefono, perché sono in intervista, un attimo in ritardo, quindi adesso andremo un attimo un pelo più spediti, magari andrò a mettere qualche pezzo di meno, e intanto sto cercando di mi collegarmi con i ragazzi che ho qua in intervista, appunto, che non sono emiliani. Adesso appena riuscirò a collegarmi anche con loro, andremo effettivamente a parlarne anche con loro. E momentaneamente, ovviamente, non poteva, eccoli, benissimo. Sono qua con i ragazzi di Paolino Paperino Band. E ciao ragazzi, scusate il ritardo, mi sentite? Allora, mamma mia, allora arrivo. Sembra uno sprovveduto, in realtà non è così. è un caso adesso. Ok, adesso ci sentiamo. Grande. Direi che ci sentiamo. Osato, questa è la mannaia giusta in questo momento. No, vai tranquillo. senza fretta, senza... No, vabbè, dai, ragazzi, a parte gli scherzi, scusate il ritardo, perché ho avuto questo problema con questo cavetto. Il computer, quando mi ripartivo, ho dovuto riavviare tutto. Detto, mi scocciava rinviare ulteriormente l'intervista. Detto, almeno facciamo quello, giustamente, almeno quello che rimane. Sono qui, come dicevo, con tutti, direi, sostanzialmente, i Paolino Paperino Band. Diciamo bene o male tutti, sì. Tutti. Meno male. Bene o male. Come delle città. Adesso ci scambiamo. Raffa. Ciao, sono Raffa. Eccoli. Ciao. Ciao. Sei della mannaia, io. Ah, ok, ci sta. Giustamente. Allora, i ragazzi di Paolino Paperino Band sono qui con me, anche purtroppo solo per mezz'ora, perché è errore mio, ma dicevo, perché sono usciti con il loro nuovo EP Semo Chi Pega, che se non ho capito male sarebbe "E adesso chi paga", no? Perché tanto tra Modena e Bologna direi che più o meno ci intendiamo, e direi che dovrebbe essere questo il sunto di quello che avete intitolato questa volta. Esattamente. Parlo io? Vai. Parlo io. No, sì, è una cosa che è nata un po' strana, perché eravamo su a Palagano a fare il ritiro per scrivere le ultime cose, per mettere, diciamo, fare gli ultimi ritocchi ai pezzi per il singolo, e poi alla fine, cioè, abbiamo fatto una grigliata, siamo andati a bere una grappa in un bar. C'era un vecchietto, un montanaro, ma quelli veraci, quelli veri, no? Ok. Prima di uscire, erano già usciti tutti, ho detto, oh, buonissima la grappa, grazie di tutto. Solo che erano tutti usciti e nessuno aveva pagato, no? Allora il tipo, mentre io facevo il fenomeno, gli dicevo, buono, bello, bravo. Lui mi ha guardato e mi fa, sì, ma chi pega? E allora da lì abbiamo detto, boh, basta, abbiamo trovato il titolo per l'album, per il singolo. Fantastico. Se guardi la copertina, il personaggio. Il personaggio è lui. È lui. Fantastico. No, poi per dire, in un mondo dove tutti, no, pensano di non poter fare niente, di non poter contare niente, no, per cambiare le cose, e alla fine tu fai quello che fai sempre il contrario, ma alla fine chi è che paga? Sempre noi, no? Gira che tira, gira, sì. Chiude tutto. Ok, allora almeno svelato il motivo per quello, per quanto riguarda effettivamente questa, questo nuovo titolo, questo simpatico titolo. E vado un attimo in pubblicità perché ovviamente questo è doveroso, 2 minuti, e rientriamo effettivamente, andare a parlare per quello, per quanto rimane con il Paolino Paperino. Seconda parte di L'Estromo Rock, che praticamente è come se fosse un attimo la prima, perché tanto per quello che purtroppo è successo nella prima parte, un po' come dicevo. Però andiamo a parlare effettivamente con il Paolino Paperino Band di quello che è il Se Mocchi Pega, a distanza di, se non ho visto male, l'album precedente era 2017, e quindi più o meno dopo 8 anni, se non ho contato male, tornati fuori con un nuovo EP. Come mai così tanto tempo? Dai, Perché c'è stato un Covid e poi dopo abbiamo un po' casseggiato, insomma, in pratica. Allora, adesso te la dico io, ti racconto che sono l'ultimo acquisto della band, hai capito? Allora, dopo effettivamente c'è stato il Covid e c'è stato un blocco astrale, non c'è fatto niente, diciamo che... E io non ero nella band, io sono l'ultimo arrivato, ok? Dopo, nel mentre... e dove mi ha lanciato un qualcosa, non tirano roba, Iana, è colpa di Iana. Niente, dopo praticamente c'è stato anche Garo che a un certo punto ha deciso, insomma, ha continuato per la sua strada via discorrendo, e la band si è anche rimescolata. Di conseguenza, quando sono arrivato io, abbiamo effettivamente iniziato a lavorare su questo disco nuovo, e sono venuti questi 4 pezzi e li ho pubblicati. Diciamo che cioè io poi loro li seguivo comunque, però loro si sono sempre mossi. C'è da dire che la scena, soprattutto a livello di degli ambienti che vengono frequentati, soprattutto nel genere, si era abbastanza diradata, perché non si poteva più uscire, non si poteva più fare niente, e di conseguenza sono quali controllo, e di conseguenza c'è stato un fermo. Dopodiché c'è stato un insieme di cose per le quali non si è potuto scrivere niente. Dopo, appena si è potuto, si è ripartiti tutti assieme e si va. Infatti ci seguiva, avevamo uno stalker, adesso l'abbiamo preso. Sì, sì. Seguivi in macchina la sera. In macchina la sera. Con il 127. Mi aspettavo davanti a casa di Iana la notte. Con un 127 leopardato. ci sta, infatti mi... Dermi. Da dire, è meglio stare zitti, secondo me. Cioè, nel senso che comunque i pezzi sono arrivati nel momento in cui c'era qualcosa da dire, meglio uscire con dei pezzi con un attimo di pompa dietro piuttosto che buttare parole al vento, secondo me. Quindi cioè, io ho condiviso questo modo di pensare. No, giustissimo, perché dici piuttosto che buttare cose a casaccio, dato che comunque mi ricordo che comunque anche nella vostra ironia, comunque nei testi, c'è sempre comunque qualcosa di importante. Vabbè, sì, il messaggio c'è, si prende tutto con ironia, però anche l'ultimo disco sono comunque dei pezzi che parlano di temi comunque piuttosto attuali. Non sempre però, io sono fuori campo, però spero che tu senta la voce. No, stai. Nel senso che delle volte c'è anche il cazzeggio fine a se stesso, puro e duro, nel senso che ci sono dei pezzi, vedi Gilda, è un pezzo dove ci siamo divertiti un po' a fare il verso a carosone, a un genere musicale dimenticato, preistorico, però è bello delle volte contaminare il tuo modo di far musica con delle cose anche proprio fuori dal mondo, fuori da tutti quelli che sono gli schemi del tuo, perché contaminare col funk ormai è diventato abbastanza banale. No. Allora aspetta, questo giro un attimo così, di cui Iana che parlava fuori campo è stato divertentissimo. Vi interrompo un attimo, che effettivamente andiamo ad ascoltarci un brano del nostro nuovo EP, e ci andiamo ad ascoltare in questo caso Greta. Entro con la diretta sempre con i ragazzi di Paolino Paperino Band, 333-180-94-94, se qualcuno volesse mandare un messaggio, oppure se qualcuno vuole fare un saluto come qualcuno aveva fatto prima, direttamente sulla diretta di Instagram, che qualcuno sicuramente sta seguendo. E come come dicevo, questo nuovo album, questo nuovo EP, di conseguenza immagino ci saranno delle date che avrete già schedulato, immagino, quindi se c'è qualcuna che la volete dire, che così diamo spazio anche a quelle, giustamente. Faccio dire la spiaggia che lei è più... No, le domande difficili, capito, capitano a me, è giusto, la cosa che vuole memoria. Io mi ricordo un cazzo, non mi ricordo neanche i compleanni, figurati se mi ricordo le date dei concerti. Mi immagino. No, sì, è vero, abbiamo qualche data che sta, insomma, stiamo cominciando, insomma, a preparare la primavera e estate. La prima al momento sarà il 29 marzo ai Visi del Pelicano, a Correggio, poi si va a maggio, Bosco Albergati, qui nel Modenese. Birker Festival. Esatto, e poi cominciamo a averne anche per giugno e luglio, insomma, e siamo in attesa appunto di magari averne anche qualcun'altra, ecco, una cosa positiva, insomma. Sarà un po' un tour della Via Emilia, perché sì, esatto, abbiamo già una data a Cesena, ci manca Bologna, perché stranamente... stranamente. Cesena, Modena, Cesena, Reggio, Parma... Ma che Piacenza e Bologna, poi dopo abbiamo fatto il tour della Via Emilia. Esatto. Perché infatti, appunto, vi ho visto diverse volte qui a Bologna. Io mi ricordo il Panca Day di qualche tempo fa, quello che, dove ci furono Shandon, Pancras, The Roser, quindi quasi tutto il fior fior del punk rock italiano, per modo di dire. Magari qualcuno mancava, però bene o male comunque i grossi erano lì. E una volta al Freak Out, qui, sempre qui a Bologna, quindi... Un anno sì e due no, abbiamo suonato tre volte al Freak Out, credo. Tre, quattro volte. Questo cioè recentemente, poi noi a Bologna ai tempi storici, fra Casalone, Kalinka, non so se ti sblocco dei ricordi, forse tu non eri neanche nato. Kalinka mi manca. No, Kalinka, scusa, non Kalinka, il Chitri, scusa. Anche quello, ma locali assurdi, veramente. Taglia. Beh, il Casalone non ti conosci? No, mi sfugge, sinceramente no. Cioè, io sono dell'84, quindi il Casalone mi... Cioè... Sì. Quando tu nascevi era già chiuso. È un'interrogazione. Adesso, ok. È un locale che comunque è andato avanti fino ai primi anni 90, 91, 92, 93, ma era un locale a Bologna abbastanza, soprattutto per lo ska. Girava tanto ska dentro, era il periodo del rocksteady che arrivava in Italia, perché ovviamente da altre parti era arrivato tipo 5-6 anni prima, vedi Londra. Però da noi arrivava in quegli anni lì e tirava tanto il Casalone, c'erano bei locali a Bologna. E infatti Gabriele Zanetti dice a Casalone io ci andavo, quindi direi che a qualcuno è sbloccato sicuramente un ricordo. È un vecchio di merda, ragazzi, scusatemi, ma sei stagionato bene, sono dai. Stagionato, sì, sono un po', comincio a mucchiare un po' di anni. Madonna. Credo di aver vissuto la più bella Bologna degli ultimi 40 anni, cioè c'è stato un momento che veramente Bologna era una città che, Bologna e Firenze, tutte e due, Milano non ci stava neanche dietro a livello di musica, parlo degli anni 80, okay. E un giro incredibile, wow. Ma anche a livello di gruppi, faccio una menzione, in Abat, noi abbiamo incrociato in Abat casualmente 1000 anni fa, io suonavo in un gruppo che si chiamava Protesti Nero, cioè era il mio primo gruppettino punk, 1982, e li incrociamo in una sala di registrazione di Castelfranco Emilia, che loro stavano registrando là da Bologna, per dirti quanti 1000 anni sono passati. Sì, qua si va tanto indietro. Adesso avevo 17 anni, forse non ero neanche maggiorenne. Beh, adesso ne hai 40, no? Adesso ne ho 57, non è problema. No. E c'è calotto la puttana. Domani. Aspetta, rientriamo rientriamo un attimo effettivamente su, per parlare questo, di questo nuovo EP, magari giusto che così per esserci ascoltati Greta prima, ma adesso sono quattro pezzi, giustamente è saltato fuori il discorso, li abbiamo fatti perché avevamo qualcosa da dire. È stato uno sblocco magari per quello che possa essere Paolino per i prossimi tempi, tipo magari tra sei mesi tirate fuori un disco, tra il prossimo anno tirate fuori un disco o un altro EP addirittura, magari dici magari ci siamo un attimo sbloccati, meno cazzeggio e siete riusciti a tirare fuori qualcosa. Che disco sta fuori? Lui è convintissimo, anch'io, cioè tutti, no? Sì. Sentirai che disco salta fuori, vedrai. No, sentirai. Abbiamo voglia di fare, di rimetterci un po' anche un po' in gioco, perché poi te lo dico io che sono il vecchio di merda, appunto, cioè lo storico della band, cioè Campar di Renta Bona, detta proprio la Bonita, e proviamo a fare qualcosa che abbiamo già fatto, secondo me, qualcosa, qualche pezzo, però vorremmo provare a tirare a pisla se veramente, lo dicevo prima, ne parlavamo prima fra di noi, è il sogno di tutti, perché Pisla è stato una roba incredibile, però ci proviamo. Aia, va bene. Le idee ci sono, ho la voglia anche, le persone giuste secondo me anche, perché non abbiamo della gente che è uscita dal conservatorio, ma la gente giusta, siamo noi, cioè non ci interessa il virtuosismo, ci interessa la gente che ha delle idee strane, possibilmente. Delle cose da dire anche, e questo è. Certo, dici alla fine c'è bisogno anche di... delle cose, vomitare quello che quando vai a casa la sera sei incazzato, lo scrivi, lo butti in un testo, cercando di evitare di parlare sempre solo di politica, perché altrimenti rompi il cazzo, scusami il francesismo. Le cazzo! Però anche parlare di cose comuni, di casa, che arrivi a casa che non so, ha staccato la luce, cioè non, perché non hai pagato la bolletta. Problemi della gente, cioè, comune. Quelle cose che uno dice, cazzo, anch'io ieri sera, porca troia. È lì che secondo me si fa centro, quando scrivi dei testi. Poi mi scrivi anche un testo del cazzo, Mi scrivi anche delle cagate, tipo... una canzone d'amore di una tipa che hai visto su un autobus, la butti giù bene, fa ridere, perché magari ci si ritrovano in 10.000. Ci sta effettivamente come ragionamento di dire butto giù quello che effettivamente è il quotidiano, e magari giustamente dici ci si può ritrovare tantissima altra gente, perché come dicevi tu banalmente sul discorso della luce, dici magari ci può essere sicuramente qualcun altro che ha avuto lo stesso problema, e ascoltando la canzone magari va a ripescare altri vostri testi, altre vostre canzoni che magari ci si può ritrovare. Ci sta. Comunque sì, per dire che la fotta c'è, cioè nel senso che se siamo in un momento che abbiamo voglia di, chiamiamolo creativo, che è già una parola grossa, creativo, perché poi a giudicare se sarà stato creativo o meno non saremo noi, ma sarete voi, perché magari c'è qualche parliamo, poi tirare fuori una merda atomica, però ci proviamo. No, cioè... io l'ho già tirato fuori stamattina, quindi non è serata, vorrei dire. Ah, nel senso figurato. Però ci proviamo, cioè... almeno abbiamo la voglia, io che poi, cioè, per primo sono vecchio di merda, appunto, cioè di quel vabbè, abbiamo fatto un po' la vittima, ragazzi, Dio Cristo, cioè faccia dell'Alzheimer vero, no, per me rimettermi in gioco è fondamentale, anche per rispetto a chi c'è stato prima, cioè nel senso che non possiamo continuare, cioè, stiamo già facendo da qualche anno, però vorrei un po' anche non essere dipendente dai vecchi Paolino, è quello che poi soprattutto secondo me vogliono loro. Ci stiamo per dare un bacio, vuoi che vengo a parlare? E poi alla fine non vengono apprezzati benissimo questi nuovi pezzi. Perché vedi Ciccioli, qualche pezzo comincia già un pochino a entrare anche un po' nella testa fra virgolette chiamiamoli i nostri fan, perché a me dire i nostri fan siamo sempre roba eccessiva, comunque vabbè. I nostri compagnoni, esatto, di i nostri sorcini. Esatto, i nostri sorcini, qua. Bravo. Lì ti metto il nuovo, il vecchio è nuovo. Hai visto? Oh, cambia. Se mi concedi una parola. Allora, vabbè, questo diciamo che è la punta dell'iceberg di quello che sarà probabilmente. Ovviamente dentro questo disco ci sono due pezzi e comunque il gran maestro Raffa, compari un attimo, ha dato tanto a questo EP nuovo. Se ascoltate, ci sono Greta e Querile, sono due canzoni completamente nuove. Quello che dice il buon vecchio Iana, vecchio nel senso vecchio, è vecchio in quel senso, anche buono nel senso di buono, quello che dice lui è che molte volte la gente che ci segue si vuole sentire dei vecchi pezzi vecchi, e Pislas è sicuramente il disco che ha caratterizzato di più la band negli anni. Ti dico io che ho seguito la band sia da fan che adesso come membro, non sapevo che arrivavo. Il discorso è questo, che secondo me, allora, c'è la band che si è rinnovata un po'. Facciamo un esempio esagerato, tipo il Misfits, hai presente che ha cambiato cantante? Cioè, siamo logorroici, abbiamo prima, rotto il cazzo. Misfits prima, Misfits dopo, ok? Adesso prendiamola così. Non volevo esagerare, però sta di fatto che comunque tu ascolti Porcellum, che è stato un cambiamento comunque all'interno del processo creativo della band. Dopodiché è arrivato, c'è gente che dormono, che per quanto mi riguarda c'è dei pezzi comunque sono straordinari. Però giustamente quando vai dal vivo la gente vuole sentire Porro Tu, Fetta, Tafferuglia e via discorrendo. Quello che cerchiamo di fare adesso, mantenendo comunque anche i pezzi precedenti che mi piacciono a buco, è comunque proporre anche qualcosa di nuovo. E lo stiamo mischiando con anche delle robe fatte in precedenza, tipo Gilda è un pezzo vecchio ripreso e rifatto a maniera. Ciccioli era un pezzo di Porcellum che è stato rifatto, anche un pelo riarrangiato, giusto per dargli un po' di pompa un po' più moderno, ok? E poi ci sono due pezzi completamente nuovi che iniziano ad avere quel sound, tra virgolette, nuovo. Cioè la Paolino non è solo Pislas Fetta, ma è anche tutto questo nuovo. E Gente che dorme nel 2017 è un disco di asino. Cioè è cantante lui. Mi sembra giusto portare comunque della roba nuova senza dimenticare quello che è stato prima, però mantenendo comunque l'identità della band, cioè che sta diventando più che altro una legacy. Hai capito? Cioè, perché alla fine Iano è molto bello, ma anche noi siamo poi bellissimi. Perché sta diventando un pochino devastante questa conversazione. Va benissimo, ragazzi. Io purtroppo però devo purtroppo salutarvi, perché così ho modo di mettervi l'altro ultimo brano che avevate detto, Puorile, adesso canzone contro l'obsoleta guerra. Esatto, Puorile, canzone contro l'obsoleta guerra. Matteo non si è fatto vedere, ma qua abbiamo un batterista straordinario nonché estremamente bello. Ok, e favore, Enrico. Anima pulsante della band. Anima pulsante della un po' rigettorni. E questo è il cane. E via, abbiamo parlato sostanzialmente con tutti. Io, ragazzi, vi chiedo ancora scusa, però comunque grazie lo stesso per la disponibilità e di aver passato questa mezz'oretta con me. Ti offrirai una birra a testa quando veniamo a Bologna. Certo. Al massimo non mi faccio vedere io, ecco, vediamo. No, va bene, dai ragazzi, vi ringrazio ancora. Io vado a chiudere effettivamente la puntata con un vostro brano, ovviamente, e spero di vedervi anche qui da Bologna, dato che comunque qualcuno aveva mandato un commento dicendo se passavate effettivamente qua da Bologna. Speriamo che riuscirete a passare anche qui da Bologna. Ciao a tutti ragazzi. E come di consueto in questa puntata un po' più corta, buon punk rock a tutti!